Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Tornando in diretta, studi di Via Zanardi per Radio Città Fujiko, si comincia con un last minute che sarà protagonista per la giornata di domani, cioè venerdì 31 maggio dalle 19, la presentazione del libro Generazione Alternativa 1991-1995 di Luca Di Gennaro. Avremo modo di vedere anche i co-protagonisti di questa presentazione, man mano che conosceremo anche chi ha portato all'interno di questa scrittura una storicità musicale per un periodo fondamentale. Scopriremo anche il perché. Un periodo da me, ovviamente, con la C-Jazz amatissimo. Non si parlerà solo della corrente musicale, questa piccola ma grande eresia portata da Gil Peterson, Patrick Forge, tanti altri, Talking Loud, C-Jazz, Soul Society. Beh, questo sarà poi motivo di colonna sonora, come ben sapete, a maggior ragione all'interno di questo Last Minute. Il lavoro precedente di Luca De Gennaro, Pop Life, aveva affrontato gli anni d'oro del pop, quelli dal 1982 al 1986, quindi posso citare così Michael Jackson, Prince, Madonna e Duran Duran, gli Wham, Spandau Ballet. Ecco, Spandau Ballet poi, perché li sottolineo, poi ovviamente per me gli anni 80 che non dimenticheremo mai nel bene e nel male, sono stati veramente un decennio secondo me devastante, li ho definiti più volte gli anni bui. L'unica cosa, quando ogni tanto riascolto qualche brano per caso e degli Spandau Ballet, ascolto la musica di adesso e dico, bah, proprio così male non erano, dai! Voglia di uscire però da questo concetto musicale, Lustrini e Paillette, gli anni 80 che hanno portato una reazione anche per quanto riguarda la musica, qualche piccola eresia, gli Style Council, Everything But The Girl, la grande Sade, ma in totale insomma quello che abbiamo ascoltato e vissuto io me li son beccati tutti, dai 10 ai 20 anni più o meno, per cui insomma poi infatti ascoltavo solo musica, a parte queste eresie che ho citato, ascoltavo solo musica da Motown, ascoltavo musica funky jazz, qualche disco funk, Philly Soul, tantissimo così, strizzavo l'occhio con curiosità al jazz già da allora e poi qualcosa va cambiando, arrivano fine anni 80, inizi anni 90, cambiato il modo di fruire la musica e sempre più ragazzi che andavano a cercare musica diversa da ascoltare. In che modo? Beh, rompendo ogni steccato ovviamente, togliendo tutte quelle, se vogliamo, anche rivalità tra i cosiddetti generi musicali. Ci sarà la possibilità di conoscere i percorsi che hanno portato il rock, il grunge, Nirvana o grunge, adesso non so, ma non seguivo tantissimo, come vi ho detto l'orientamento era diverso, i Metallica, Nirvana, Pearl Jam e tanti altri. Cambiò qualcosa, arrivò l'hip-hop, arrivò la musica da club con l'house music, il Britpop, il trip-hop in seguito alla C-Jazz. Insomma, è stato una parte, questi inizio di anni 90, che io l'ho definito in un modo molto particolare, che andremo a conoscere in questa conversazione con Luca De Gennaro, autore del libro che sarà in presentazione all'Istituto Parri per la giornata di domani. Cominciamo per dare spazio a un appuntamento di venerdì 31 maggio dalle 19. Vi sarà all'Istituto Parri la presentazione del libro Generazione Alternativa 1991-1995. Siamo con l'autore Luca De Gennaro, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Generazione alternativa, come la musica underground ha conquistato le classifiche e rivoluzionato il mercato. Io la definì una sorta di rinascimento musicale l'inizio degli anni 90, perché Tra l'altro, facendone un breve excursus con quelli che sono stati i protagonisti dell'epoca, dal grunge, dalla pop, dai Nirvana, fino ad arrivare anche alla C-Jazz, a un percorso ritroso che ci porta al trip-hop, nell'elettronica, nella musica per quanto riguarda anche il dance e il club. E chiedevo come primo motivo di conversazione: è stata una sorta di rinascimento artistico musicale? Lo è stato decisamente, ed è stato il motivo per cui mi sono deciso a scriverci un libro, nel senso che è un periodo che va riconosciuto per l'importanza che ha avuto nel mondo della musica, per la rivoluzione musicale che è avvenuta in quegli anni. E proprio per la unicità di quel periodo, nel senso che non solo la musica underground, come ho detto nel sottotitolo che tu gentilmente hai riportato, non solo è stato un periodo in cui la musica underground ha conquistato le classifiche, quindi è diventata, se vogliamo, più importante della musica mainstream, no? del pop per un largo pubblico, quindi la musica sotterranea che diventava ancora più per un pubblico largo rispetto al pop tradizionale, ma è stato identificato un nuovo pubblico. La cosa straordinaria di quegli anni è che il pubblico della musica alternativa, della musica underground, che fino a quel momento era spezzettato in tante fazioni, in tanti club, no? Perché c'erano i metallari da una parte, i punk dall'altra, ancora quelli che andavano in discoteca a ballare dall'altra parte, e tra di loro non si vedevano bene questi club, queste fazioni. A un certo punto si sono resi conto di essere tutti quanti un unico club, un'unica generazione, la famosa generazione alternativa, da cui ho preso il titolo, nel senso che è proprio, era la voglia che avevano i giovani dell'inizio degli anni 90 di ascoltare qualcosa di diverso, di riconoscersi in qualcosa di diverso, proprio perché era diverso, perché era nuovo. The time has come when we may run to the hills and mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong and truly belong. To a race or equal, the creator will never, never need a sequel. We ask you all to join us in the universal prayer of every man and woman. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Yeah. Pushing out a shovel and you can all love it. 1989-1990, insomma, magari anche qualche annetto dopo, ma non troppo, In cantiere, allora elettricista, giovanissimo, con un collega con qualche anno in più, ci si scambiava pareri sulla musica. Ah, ormai io ascolto solo musica dalla Motown, al disco funk, cose. Ma allora tu devi assolutamente portare al tuo ascolto formazioni come Galliano, Incognito. No, guarda, non hai capito bene, io non ascolto assolutamente, era ancora più integralista, non ascolto assolutamente musica italiana. Ma no, è AC/Jazz, è AC/Jazz. Ma come? Spiegami bene. Beh, tu prova. E da lì iniziai ed è iniziata. È così, è per quello che l'ho definito un rinascimento musicale. Stiamo ascoltando Galliano dal loro disco A Joyful Noise Until the Creator. Questo è il singolo in vinile, Prince of Peace, che è un brano che è stato scritto negli anni 60 da Leon Thomas con Pharoah Sanders, Prince of Peace. Solid peace with respect and overstanding. See the war in Kansas cease. Hatred, silence, noise, violence. Seek another way, more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive. The choice is now. Prima volta che ascoltai questo disco, poi dopo con l'approfondire con il loro lavoro In Pursuit of the 13th Note per la Talking Loud, è stato stranito, io ero e un un'altra particolarità, non sono stato precisissimo, però non ho sbagliato di tanto, Sì, e poi dava allo stesso tempo possibilità di ricerca. Io provengo dalla C-Jazz, fra l'altro, e quanto ha dato modo di approfondire una radice jazz, dall'hard bop al cool jazz, a tutto quello che è stato fino ad arrivare al free, ma non solo in ambito di black music. Tra l'altro il paradosso è che la C-Jazz nasce in Inghilterra, comunque questo è un altro discorso, però è un aspetto più trasversale quello che voglio e a questo punto vogliamo far notare, di come abbia rotto determinati steccati. E mi permetto di aggiungere un'altra riflessione: è stato un po' il canto del cigno della musica intesa come non liquida? Bah, oddio, diciamo che ci sono stati ancora un 6 o 7 anni in cui i giochi si facevano con la vendita dei dischi e con i passaggi radiofonici e i passaggi dei video. Diciamo che ha cominciato a esserci la musica liquida, ha cominciato a circolare all'inizio degli anni 2000 con sì. Napster essenzialmente, no? Quindi sì. Qui il mio racconto si ferma al 95, perché diciamo è un periodo in cui termina un certo modo di intendere la musica, e secondo me è proprio un momento in cui finisce questa generazione alternativa e ha un suo, diciamo, la fine ha un suo inizio. L'inizio è la morte di Kurt Cobain, essenzialmente. Da lì in poi, da quel giorno di aprile del 94, si va un po' spegnendo la scintilla della musica alternativa. Dietro l'angolo ci sono le cose che ci piacevano un po' meno della fine degli anni 90, quindi da una parte le boy band, dall'altra il new metal, no, se vogliamo, che porta poi verso lo sfacelo del festival di Woodstock 99, mentre invece gli anni che ho raccontato dal 91 al 95 sono anni in cui c'era una grandissima creatività da tutti i punti di vista. E tu giustamente citavi la C-Jazz, che io cito anche perché in qualche modo lo vedo nascere in uno dei miei viaggi a Londra. Va detto, per chi non avesse un'idea di che tipo di libro sia, non è un manuale Generazione Alternativa, cioè non è un libro che parla solo di storia della musica, ma è proprio una sorta di cronaca di vita vissuta, perché io in quegli anni giravo come un pazzo, cercavo di essere ovunque capitasse qualcosa di interessante dal punto di vista musicale, e quindi 30 anni dopo ho voluto raccontarli anche proprio in prima persona. E sull'Acid Jazz mi ricordo benissimo, lo racconto, il momento in cui c'è questo incontro con Giles Peterson, che è uno dei protagonisti della scena, che dice: mi hanno chiamato quelli della Phonogram, vogliono che io faccia un'etichetta, penso di chiamarla Talking Loud, come le mie serate al Dingwalls. E da lì nasce un po' la storia di una delle etichette più importanti per la diffusione di quel genere, che poi era un genere che nasceva essenzialmente dalla riscoperta di vecchi dischi dimenticati, probabilmente dei genitori di quelli che poi li ascoltavano, certo, e li suonavano nelle discoteche, certo. So, quindi era tutto molto interessante e tutto molto stimolante in quegli anni, in vari mondi musicali. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horns. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandmoms, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging. Quanti autori sono stati riscoperti alla tromba qui? Donald Byrd. It's a choice, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around. Lo stesso Gil Scott Heron, Terry Callier, Roy Ayers. Mi stanno venendo in mente così, eh. Just lounging. Today it ourselves classical music. to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute, for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging. Mellow out, and just lounging. Lounging, lounging, mellow out, check it out, and lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging. East to Brooklyn, where I live, where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging. Lounging. Everybody knows they have times when they wanna just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge. I said lounge. In conversazione con Luca De Gennaro all'Istituto Parri per venerdì 31 maggio dalle 19 ci sarà Carlo Babando e troveremo anche l'introduzione di Roberto Lanzarini dell'Istituto Storico Parri. Per la precisione in via Sant'Isaia 20, il 31 maggio alle ore 19, generazione alternativa 1991-1995. Luca De Gennaro, seguirà poi il DJ set al Gallery 16, via Nazario Sauro 16, dalle 22:30. A curarlo sarà proprio l'autore del libro Generazione Alternativa. A seguire, come di consueto, il DJ set al Gallery 16 in via Nazario Sauro 16 a dalle 22:30 e a curarlo sarà proprio Luca qua al telefono con noi con una selezione di brani a tema. Che dire? Insomma, guarda, posso dirti anche non a tema, nel senso che okay. io sono fondamentalmente un disc jockey. Il disc jockey per come lo intendo io, cioè non il producer che fa la sua musica, va lì a fare un DJ set in cui propone solo le sue produzioni. Io sono un DJ, cioè sono uno che guarda la pista e decide che cosa mettere, per cui non voglio essere troppo chiuso nel tema del DJ set. Mettiamo della bella musica, cerchiamo certo di divertirci di qualsiasi epoca. Hai fatto bene a specificarlo. Io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione e appuntamento prima al Parri e poi ovviamente, come ho sottolineato, anche al Gallery 16. Grazie. Molto contento di ritornare a Bologna, perché insomma gli amici dell'Istituto Parri hanno già ospitato la presentazione del mio libro precedente 2 anni fa. È un bel posto, si sta bene, e poi Bologna è la città dove tra l'altro ho fatto anche l'università, per cui ho dei ricordi, quei ricordi che si possono avere del tempo dell'università, belli e brutti, però ce li ho, quelli belli sono quelli rimasti, diciamo. Bentornato allora. Grazie. Prima con Guru Jazz Mataz, an experimental fusion of hip hop and jazz. Per mio modesto parere abbiamo ascoltato il disco di hip hop più bello di tutti i tempi. Lui invece porta l'antidoto, è un chitarrista tanto talentuoso quanto sfortunato, risponde a nome di Ronnie Jordan. You're locked into a new source of no remorse. You're moving towards your designated destination. Now feel the sensation and the rush and the buzz of your life in your own hands, 'cause I know I was wondering why the rubber told me he was shooting from the hip when he hadn't got to the... Abbiamo la stessa idea sul DJ, che non è un musicista, quello è il produttore, il producer, è un altro discorso, è un'altra modalità di portare musica. I gotta tell that's never been, never been, never been, never been, never been, never been so. No condom running, shuffle. saluto per l'Istituto Pari a Roberto Lanzarini. Ricordo domani, venerdì 31 maggio, dalle 19, seguirà poi dalle 22.30 al Lab 16 il DJ set riportato dall'autore di Generazione Alternativa Luca De Gennaro. Saluto anche Carlo Babando, che ho incrociato casualmente ieri sera, che sarà appunto in conversazione con lo stesso Luca De Gennaro. Grazie per l'attenzione, questo è il Last Minute di oggi, a breve andremo in mostra.